Sì, senza etichette lustri, ma avanti, avanti. Abbiamo un raddoppio della frequenza stamattina. Abbiamo il doppio di frequenza. Dicevo appunto che presentiamo un prodotto della casa, si può prodotto dire della così? Casa, sì. Ecco, basta. Che sono le cose genuine, le cose buone, le cose fatte in casa. No, a parte gli scherzi, il prodotto della casa è davvero Beppe Orbi, nel senso che il suo studio alla frontiera della storia della scienza, da una parte, della storia dell'illustrazione scientifica, della storia dell'arte da un'altra, della storia del collezionismo e della storia tout court in generale, ecco, i suoi studi presentano proprio questa caratteristica fondamentale, ecco, di trovarsi alla confluenza di queste curiosità, già che storia vuol dire sostanzialmente curiosità, ecco, ormai da qualche tempo, insomma, anche se crescendo assieme si è sempre considerati quasi come il primo giorno, sono quasi 20 anni che si lavora assieme fin dalle origini di questo istituto, quindi no, sono 20 anni, quindi, ecco, quindi si corre il pericolo proprio di... Ecco, invece no, ecco, invece è cresciuto... Sono cresciute tante cose anche dal punto di vista scientifico e credo che appunto Olmi adesso ci darà una dimostrazione di questo tipo di intrecci che si verificano in questi momenti di, possiamo dire, accelerata acculturazione, se vogliamo dire appunto, di scambi tra civiltà anche a diversi livelli. La parola. Allora, il titolo non è precisamente quello che è nel programma, il titolo esatto è Magnus Campus, i naturalisti italiani di fronte all'America nel secolo XVI. Tra le splendide tavole che ornano l'opera De Florum Cultura del gesuita Giovan Battista Ferrari, un trattato di giardinaggio sostanzialmente, uscito a Roma nel 1633, poi in traduzione italiana nel 1938, tra queste splendide tavole, dicevo, ve n'è una incisa da Greuter su disegno di Guido Reni, che alcuni di voi possono vedere in queste pessime fotocopie, che comunque poi potete vedere meglio qui in quadro. Dicevo, ve n'è una che raffigura l'America nell'atto di porgere a Nettuno una scatola contenente i semi delle nuove terre, affinché il dio del mare li porti in Europa e precisamente negli orti barberini per arricchire le varietà floreali di quell'orto. Orti barberini perché il Ferrari, l'autore dell'opera, appunto, faceva parte della clientela del cardinal Barberini. La tavola, che indubbiamente è molto bella e pregevole sotto il profilo artistico, non presenta grandi novità certamente rispetto al soggetto. Soggetto che sostanzialmente si ricollega alla tradizione iconografica delle allegorie dei quattro continenti, che era già iniziata alla metà del secolo precedente, che si era diffusa in quadri, affreschi, incisioni e così via. Tuttavia c'è un aspetto di questa tavola sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione, un aspetto che non si trova solo in questa tavola ma che ritorna anche in altre raffigurazioni, ad esempio in un affresco della Villa Farnese di Caprarola, dove l'America è raffigurata come una donna che tiene tra le mani una grande cornucopia dell'abbondanza dalla quale si intravede l'uscita di una grande quantità di misteriose ricchezze. Vi è in questa tavola l'idea che il nuovo mondo sia come un immenso scrigno ricolmo di preziose novità e strabilianti meraviglie pronte a riversarsi sui paesi europei, l'idea che tutto ciò che è stato creato e a lungo celato al di là dell'Oceano Atlantico possa alla fine rientrare in possesso degli abitanti del vecchio mondo, apportando loro in tutti i campi enormi e insospettati vantaggi. Rovesciando totalmente la prospettiva, si riteneva anche del tutto logico che fossero le stesse popolazioni indigene dell'America a manifestare un atteggiamento di questo tipo. Quale giusto e ovvio ringraziamento per essere state finalmente scoperte, esse dovevano spontaneamente mettere a completa disposizione degli europei le ricchezze della loro terra. In modo assai chiaro, tale concetto veniva espresso graficamente l'anno stesso dell'uscita dell'opera del Ferrari, nel frontespizio del Novus Orbis del geografo e filologo belga Jean Delette. È a fuoco? Un minimo, sì. Nella parte inferiore di questo frontespizio compare... non funziona più. Ecco, questa è la parte inferiore. Compare una dama seduta su... Beh, più che un trono, è una sedia un po' bella. Una dama che rappresenta la Federazio Belgica, in realtà le Province Unite d'Olanda, verso la quale, uscendo dal buio del nulla, almeno così io interpreto, uscendo dal buio del nulla, dal buio dell'ignoto, si dirigono, accompagnati da un armadillo e in atto di sottomissione, tre abitanti delle Nuove Indie con le mani ricolme di doni. Un cartiglio al centro della scenetta reca l'esclamazione con la quale gli indiani si rivolgono alla dama, appunto: venisti tandem, finalmente sei venuta, alla fine sei arrivata. Vedremo più avanti se e in quale misura la scoperta dell'America e delle sue ricchezze abbia provocato dei reali profondi mutamenti nel corso del Cinquecento nell'ambito di quella disciplina che proprio allora iniziava pur con fatica ad emergere e dotarsi di uno statuto autonomo, autonomo soprattutto dalla medicina, e cioè la storia naturale. Incominciamo per ora col cercare di capire quale immagine della natura delle nuove terre potesse farsi attraverso i resoconti di viaggiatori ed esploratori, l'uomo e più in particolare lo scienziato europeo. Già Colombo, nel corso del suo primo viaggio, un Colombo peraltro convinto di aver raggiunto l'estremo oriente, è immediatamente colpito dalla grandiosità e dalla bellezza del paesaggio delle Bahamas e delle Antille. Lo scenario che si spalanca davanti ai suoi occhi presenta caratteristiche tali da costringerlo ad ammettere, rivolgendosi ai sovrani spagnoli, di non essere in grado di narrar loro il vero né di scriverlo. Nelle descrizioni del navigatore genovese, così come in quelle di tanti successivi cronisti, torna inoltre ripetutamente e quasi ossessivamente l'immagine di una natura ipertrofica, di un terreno straordinariamente fertile. Rispetto all'Europa, tutto o quasi tutto cresce con ritmi più veloci e raggiunge proporzioni più grandi. Sulla prodigiosa fertilità della stessa isola si sofferma anche, nelle sue Decades de Orbe Novo, Pietro Martire d'Anghiera. Parla di lattughe, verze, borrane, melloni, cocomeri, zucche e altre simili cose che in 36 giorni furono raccolte migliori che mai fossero mangiate. Taglierò le citazioni molto per abbreviare la relazione, quindi mi dovrete credere sulla parola, insomma, tante volte. Come si desume da questo passo, non sono solo le piante locali a crescere in modo straordinariamente rigoglioso. Gli effetti della natura del suolo si fanno sentire anche sui semi nostrani, portati dalla Spagna, il cui sviluppo accelerato si conclude pressoché regolarmente con esiti macroscopici. Oltre che della flora, densità e gigantismo sembrano pur essere generalmente caratteristiche della fauna. I pappagalli sono tanto numerosi che volando a stormi oscurano il sole, scrive Colombo. Suoi uomini mandati a ricognizione a Cuba nel corso del secondo viaggio si imbattono, secondo quanto riferito da Pietro Martire, in grue in gran quantità, il doppio maggior delle nostre. E grandiosa si presenta la stessa natura inorganica. Sempre Colombo si trova davanti montagne che gli sembrano le più alte che vi siano al mondo. Alcune di esse pare che giungano al cielo e siano fatte come una punta di diamante. Se dunque tutto appare gigantesco, v'è forse da meravigliarsi del fatto che questa crescita smisurata possa riguardare anche l'uomo, che gli esploratori finiscono per imbattersi nei giganti? Amerigo Vespucci e alcuni suoi compagni, come noto, incontrano sette femmine di tanta grande statura che non v'era alcuna che non fosse più alta di ciascuno di noi una spanna e mezzo. Un'esperienza simile capita poi anche in Patagonia ad Antonio Pigafetta, Dopo 2 mesi trascorsi a contatto con la sola natura, senza vedere persona alcuna, come scrive lui, ecco all'improvviso vedessimo un uomo di statura di gigante, che stava nudo nella riva del porto, ballando, cantando e buttandosi polvere sopra la testa. L'altra caratteristica della natura d'oltreoceano, che stupisce profondamente i primi esploratori e che peraltro continuerà poi a lungo ad essere sottolineata come un topos in molte relazioni di viaggio, è quella della sua novità, della radicale diversità rispetto a quella degli europei. Qui i pesci, riferisce Colombo, sono tanto differenti dai nostri che se ne rimane stupiti. Gli alberi erano tanto differenti dai nostri come il giorno dalla notte, e parimenti lo erano i frutti, le erbe, le pietre e ogni altra cosa. Già in qualche modo preparato e influenzato da tutta una nutrita serie di testimonianze, chi si metteva in viaggio per il nuovo mondo era pressoché certo dell'incontro con una realtà naturale assolutamente insolita, tanto insolita da poter addirittura apparire rovesciata rispetto a quella europea. Dal momento stesso in cui si salpava e si abbandonavano i lidi familiari, ogni più strana esperienza diventava possibile. A un secolo e mezzo dalla scoperta di Colombo, due cappuccini missionari emiliani, padre Michelangelo Guattini da Reggio Emilia e padre Dionigi De Carli da Piacenza, non nascondevano il loro stupore di fronte a quanto era loro capitato di vedere durante la navigazione da Lisbona al Brasile. Qui trovassimo il roversio della natura, cioè il pesce che vola. Che poi, se questo... No, scusate. Ecco, probabilmente non c'entra nulla con questi due padri, ma avranno incontrato un pesce, uno di questi pesci rondine che appunto fanno dei brevi voli sull'acqua, e qui trovassimo il roverso della natura, cioè il pesce che vola. L'esuberanza e la diversità della natura, un clima spesso costantemente favorevole, la straordinaria mansuetudine e l'innocenza talvolta manifestata dagli indigeni, aura etate viventes, spingevano navigatori e cronisti a vedere e dipingere il nuovo mondo come una terra fiabesca, a creare una geografia fantastica all'interno della quale trovavano collocazioni il paradiso terrestre o fonti dell'eterna giovinezza. Persino nel resoconto di fine Cinquecento di un mercante pragmatico e smaliziato come il fiorentino Francesco Carletti, che vedeva le cose con occhio commerciale e sempre pronto a sottolineare gli aspetti negativi delle terre americane, e dunque assai poco disposto nella quale si poteva ottenere senza fatica tutto ciò che si desiderava. Per conclusione, si possono avere tutte le cose secondo che si vuole, in tutto il tempo dell'anno, per esservi sempre una medesima stagione, per esservi sempre primavera, estate e non mai inverno. Sulla scorta di tali informazioni, l'anonimo autore emiliano di un poemetto della prima metà del Cinquecento giungeva a identificare il mondo nuovo trovato nel mare oceano con il mitico paese di Cuccagna, con il mondo alla rovescia, da sempre sognato e agognato da poveri diseredati, dalle moltitudini di coloro che trascorrevano l'esistenza abbruttiti dal lavoro e tormentati dalla fame. Un paese dunque in cui v'erano montagne di casio grattato, fonti di buon vin, fiumi di latte e alberi che producevano starne e caponi, un paese dove nascano le cose senza fatica e te ci state sempre ad ogni mese, dove non c'è vecchiezza, mai malattie, doglie né affanni e ognuno è ricco, ognuno ha ciò che vuole. Come numerosi studiosi hanno da tempo ampiamente documentato, alle radici del sorgere e del diffondersi di tali credenze fantastiche, ovviamente per noi fantastiche, stava l'atteggiamento stesso con cui l'uomo europeo entrava inizialmente in contatto con la realtà americana e l'affrontava. Un atteggiamento che in larga parte non mancherà di essere condiviso dagli studiosi della natura e di segnarne invisibilmente la ricerca. Il fenomeno ormai ampiamente noto è quello tipico che puntualmente si ripresenta ogni qualvolta si verifica un impatto col nuovo, allorché si deve descrivere una realtà diversa. Chi affronta il nuovo, nel nostro caso coloro che sbarcarono sul suolo americano, ma in precedenza anche coloro che erano andati in Asia, non è mai culturalmente vergine, non si presenta all'appuntamento con un archivio mentale completamente vuoto nel quale sia possibile inserire senza alterazioni, allo stato puro, i nuovi dati. Al contrario, schemi mentali, condizionamenti e abitudini radicate, sedimentazioni culturali fanno sì che ogni novità sia vista e poi riferita attraverso la mediazione o il filtro più o meno deformante del vecchio, del già noto. Ciò significa che gli esploratori che si inoltravano nel continente americano vivevano l'esperienza senza poter prescindere dalle coordinate secolari loro fornite dall'elaborazione della tradizione cristiana e classica. E dunque vedevano ciò che si aspettavano di vedere, finivano per trovare ciò che si aspettavano di trovare. Da generazioni oramai recepite e digeriti, i resoconti di viaggiatori o pseudo-viaggiatori come Marco Polo e John Mandeville costituivano anche per gli esploratori del Nuovo Mondo delle sorte di mentali guide di viaggio sulla cui base essi si muovevano, spesso verificando l'esistenza di rassicuranti corrispondenze, rintracciando cioè nella realtà delle nuove terre i mirabilia in esse descritti. Questa tendenza a trasferire ad Occidente dell'Europa luoghi paradisiaci e indecifrabili meraviglie che una lunga tradizione aveva attribuito all'Oriente non è riscontrabile solo in Colombo, che all'inizio pensava di aver effettivamente raggiunto le terre descritte da Marco Polo, ma anche in numerosi altri esploratori e cronisti. Ogni terra lontana, periferica e sconosciuta appariva infatti, proprio per queste caratteristiche di fondo, come una valida alternativa all'estremità orientale del mondo, la misteriosa India. Anzi, di fronte a una certa difficoltà che si andava manifestando di rintracciare concretamente a est le mitiche creature e le fantastiche realtà descritte da autori antichi e medievali, ogni altra periferia si offriva quale nuovo e ideale contenitore al cui interno ogni incontro stupefacente ridiventava possibile. Sotto questo aspetto, quanto avvenne nell'ambito della teratologia è assolutamente esemplare. Già nel corso del XIV secolo, grazie soprattutto all'opera di Angelino da Dall'Orto e Giovanni dei Marignolli, il mitico regno del prete Gianni venne spostato, per così dire, dagli spazi asiatici in Africa, precisamente in Etiopia, e con esso vennero ovviamente spostati anche gli animali e i fantastici abitanti di quel regno. Onagri, grifones, homines agrestes, homines cornuti, fauni, satiri, pigmei, cenocefali, cioè uomini con la faccia di cane, gigantes, monoculi, cioè uomini con un solo occhio, ciclopi e così via. Per niente è strano allora che con la scoperta del Nuovo Mondo queste strane creature o parte di esse subissero un ulteriore trasferimento. Si poteva rimettere in discussione la dislocazione geografica degli esseri mostruosi, mentre certo più difficile era liquidare del tutto, come pura fantasia, la loro esistenza avvalorata da tante autorevoli testimonianze. Perciò Colombo non ha eccessiva difficoltà nel riportare la descrizione dei cannibali mostruosi forniteli dagli indigeni, uomini con un solo occhio e altri col muso di cane, i quali si nutrivano di carne umana. Ciò che gli veniva riferito, infatti, non era qualcosa di assolutamente insensato, poiché monocoli e cinocefali erano esseri che appartenevano da tempo al bagaglio culturale, o se vogliamo, utilizzando un'espressione di Le Goff, all'orizzonte onirico degli europei, che erano stati legittimati all'interno dell'ordine naturale dallo stesso Sant'Agostino e che quindi probabilmente erano già familiari al navigatore genovese. Sulla base di queste considerazioni preliminari, possiamo ora cercare di capire quali riflessi ebbe la scoperta del continente americano sulla ricerca naturalistica e sulla pratica medica, in particolare nella penisola italiana. Le prime notizie che tra 4 e 500 arrivano agli studiosi sono certo piuttosto vaghe, e questo anche perché i primi esploratori, per giustificare agli occhi della corona spagnola le loro imprese, preferiscono soffermarsi nelle loro relazioni sulle enormi quantità d'oro o di materiali preziosi che si possono ricavare dalle nuove terre. Anche se, come abbiamo visto, non trascura di descrivere la natura, e spesso molto bene, i veri obiettivi dello stesso Colombo sono oro, pietre preziose e perle. E se di questi non rinviene traccia, il genovese preferisce procedere oltre speditamente nell'esplorazione. La fame di ricchezze caratterizza in modo ancora più evidente l'azione dei cosiddetti conquistadores, e tra questi in particolare di Hernán Cortés, che appena agli inizi dell'esplorazione già scriveva ai suoi sovrani: a nostro giudizio si può credere che in queste contrade ci siano ricchezze pari a quelle della terra in cui Salomone prese l'oro per il Tempio. Inoltre, anche quando si soffermano a rappresentare la realtà naturale, navigatori e soldati spesso non sono in grado, in quanto tali, in quanto navigatori e soldati appunto, di fornire dettagli precisi. Colombo, ad esempio, era perfettamente conscio di questa sua carenza di specifiche conoscenze naturalistiche, tanto da essere costretto ad ammetterla con rammarico e più di una volta nei suoi resoconti. Pur complessivamente caratterizzate da un grado piuttosto elevato di frammentarietà e incertezza, Le notizie che nei primissimi decenni dopo la scoperta giungono dal Nuovo Mondo sono perlomeno sufficienti a diffondere in Spagna e da qui ad altri paesi europei un'idea generale dell'esuberanza e della diversità della natura d'oltreoceano. E assieme alle notizie incominciano a giungere anche i primi campioni. Già Colombo, nel corso del primo viaggio, si preoccupa di inviare ai suoi sovrani, oltre a minerali preziosi, concrete testimonianze della flora e della fauna in cui si era imbattuto. Piante di aloe e di rabarbaro, resina di lentisco, una pelle di serpente, un pesce che sembrava un porco e che si cercò di conservare nel sale. Questi reperti non avevano solo un valore informativo. Ben presto nella penisola iberica si interrano semi di piante americane per verificare la loro capacità di attecchimento. In Italia l'interesse per gli esiti della scoperta del Nuovo Mondo trovava la sua ragione d'essere anche nel fatto che fra coloro che guidavano le spedizioni verso ovest o che di esse facevano parte vi era un'alta percentuale di italiani e italiano, anche se ormai stabilitosi in Spagna, era pure colui che per primo, raccogliendo informazioni dagli esploratori che tornavano, aveva descritto all'intera Europa la realtà americana, Pietro Martire. Fra gli stati della penisola fu certamente quello veneziano, almeno dopo la conquista del Messico, uno dei più attenti a cogliere le notizie che venivano d'oltreoceano, e ciò indubbiamente per motivi prima di tutto commerciali. Già Colombo, di ritorno dal primo viaggio, aveva dato informazioni sulla grande presenza di spezie sul suolo americano e dunque dalle nuove prospettive economiche che le rotte atlantiche aprivano alla penisola iberica, Venezia vedeva ovviamente minacciato quel monopolio o quantomeno quella posizione preeminente che appunto nei traffici di spezie con l'Oriente deteneva. Sempre a Venezia c'era un gruppo di intellettuali, comprendente Andrea Navagero, Pietro Bembo, Giovanni Battista Lamusi e Gerolamo Fracastoro, molto aperto nei confronti delle novità d'oltreoceano. Nonostante fra di loro fosse annoverato un unico scienziato, stricto sensu, il medico Fracastoro, essi non trascurarono di interessarsi vivamente anche della realtà naturale. Un atteggiamento questo che non deve peraltro meravigliare, sia perché il concetto stesso di professione e professionalizzazione era assai vago se non inesistente nel Rinascimento, sia perché la passione, allora così in voga, per l'arte del giardinaggio aveva fatto di alcuni di loro dei buoni conoscitori di storia naturale e, in particolare, di botanica. Tra il 1524 e il 28 Navagero, in missione diplomatica per la Repubblica Veneta, fece un viaggio attraverso la Francia e la Spagna e in quest'ultimo paese gli venne a trovarsi naturalmente in posizione ottimale per raccogliere informazioni sulle nuove Indie. Il suo biografo settecentesco, Gian Antonio Volpi, lo descrive come assai desideroso di conoscere la natura e le proprietà delle piante e dice anche che egli, tornando in patria, ex Spagna, ne portò con sé molte del tutto sconosciute a quei tempi. Non è possibile stabilire in questo caso se si trattasse proprio di essenze vegetali provenienti dall'America, ma che Navagero si interessasse grandemente delle novità di quella terra e ne facesse partecipi gli amici veneziani, lo sappiamo bene dalla sua corrispondenza con Ramuso e dal suo giornale di viaggio. Se non proprio con il Navagero, quantomeno con altri membri del gruppo Veneto era in contatto un autore spagnolo, Gonzalo Fernández de Oviedo, le cui opere aprirono, anche se come vedremo piuttosto parzialmente, nuove prospettive rispetto alla conoscenza della natura americana. Utilizzando le osservazioni compiute durante i suoi soggiorni nel Nuovo Mondo, Oviedo pubblicò nel 1526 il Sumario della Naturale Generale Historia de las Indias e nel 1535 la prima parte della Historia Naturale Generale de las Indias. La prima opera venne tradotta in italiano e pubblicata a Venezia nel 1934 ed entrambe vennero poi inserite poco dopo, cioè sia il sommario che la storia, nel terzo volume delle Navigazioni e Viaggi del Ramusio. L'autore stesso nel sommario, e precisamente nella dedica introduttiva all'imperatore Carlo V, non esitava a mettere in risalto l'originalità della sua opera, un'originalità che risiedeva sostanzialmente nell'atteggiamento privo di distrazioni di sorta con cui egli si era posto di fronte alla realtà americana e nel rigore che contrassegnava la sua attività di cronista. Alle descrizioni del tutto incidentali o superficiali di coloro che sino a quel momento avevano attraversato l'oceano per conquistare, commerciare e arricchirsi, Oviedo contrappone le sue, frutto di attenzione specifica, di desiderio di conoscenza e di naturale inclinazione. A rendere le opere di Oviedo particolarmente interessanti e degne di considerazione agli occhi degli studiosi della natura, era prima di tutto l'elevata percentuale di pagine dedicate alla descrizione della realtà fisica del Nuovo Mondo, con il sommario e l'istoria, per la prima volta, alla distanza di oltre 30 anni dalla scoperta di Colombo, la flora e la fauna americana diventavano oggetto specifico di attenzione e di indagine. Come ha osservato Gerbi, l'autore spagnolo era scarsamente interessato alle gesta umane della conquista, dei nuovi spazi, della conquista di nuovi spazi, alle imprese belliche, e finì invece per riversare nei suoi resoconti soprattutto la sua passione e le sue qualità di devoto osservatore degli alberi, delle erbe e delle bestie. Ma l'intento di Oviedo non era semplicemente quello di descrivere la natura d'oltreoceano, ma di farlo con un metodo che, sgombrando il campo dalle favole che su tutte le cose di quest'Indie egli vedeva circolare numerose in Spagna, privilegiasse il resoconto della pura verità e si fondasse quindi sull'esperienza diretta, sull'uso continuo e critico della vista. Il sommario e l'istoria si imponevano infine all'attenzione anche per un'altra caratteristica: il corredo, anche se limitato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, di un apparato iconografico. Il ricorso cioè ad uno strumento descrittivo che proprio in quegli stessi anni incominciava ad essere apprezzato e utilizzato su larga scala dai naturalisti. La diffusione delle opere di Oviedo in Italia, di molto favorita dalla loro traduzione e inserzione nella raccolta del Ramusio, avvenne quasi parallelamente o anche grazie al verificarsi, attorno alla metà del secolo, di una serie di eventi che direttamente o indirettamente avrebbero inciso profondamente nel panorama culturale della penisola, in particolare nel mondo della ricerca scientifica. Due di essi almeno devono essere qui ricordati. In primo luogo la crescita, a partire dalla prima edizione del Dioscoride del Mattioli, 1544, degli studi naturalistici, cui si correlava una sempre più sostenuta produzione di testi. Questo maggiore interesse per i multiformi aspetti della realtà naturale si manifestava però proprio nel momento in cui l'Italia appariva totalmente tagliata fuori ormai dall'opera di esplorazione e di conquista ed era quindi costretta a dipendere sempre più dalle notizie provenienti dai paesi più direttamente impegnati nell'impresa, in primo luogo la Spagna e il Portogallo. Tutto ciò significava, sintetizzando, che mentre cresceva la richiesta di informazioni sempre più dettagliate su animali, piante e minerali del Nuovo Mondo, si andavano invece via via esaurendo molti dei canali attraverso i quali tali informazioni passavano. Come dimostra il catalogo della fornitissima biblioteca del bolognese, del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi, che è questo signore qui, i naturalisti, per rimediare a una simile situazione, puntarono in primo luogo ad una raccolta sistematica, spesso a tappeto, delle opere relative al continente americano. I testi più ricchi di descrizioni naturalistiche e di fatto più utilizzati furono ovviamente quelli di Oviedo e verso la fine del secolo la Storia naturale e morale de las Indias del gesuita José de Acosta, pubblicata nel 90 e tradotta in italiano nel 96. Ma la fame di notizie spingeva gli studiosi della natura ad acquisire e a consultare accuratamente qualsiasi resoconto di viaggiatori, esploratori e religiosi. Ogni opera doveva essere scandagliata a fondo perché tutti i dettagli, anche quelli apparentemente più insignificanti, potevano aiutare gli studiosi a muoversi in quel grande settore di ricerca, Magnus Campus, che si era improvvisamente aperto con la scoperta dell'America, quasi alter mundus. Le chiose e le sottolineature che ad esempio costellano la copia dell'Istoria di Acosta, in traduzione italiana, posseduta dall'Aldrovandi, stanno lì a testimoniare l'attenta lettura dello scienziato bolognese, così come la scritta finale di suo pugno, io Ulisse Aldrovandi lo lessi tutto il giorno 11 luglio 1596, dimostra che acquisto e consultazione avvennero immediatamente a ridosso della pubblicazione. Ma Aldrovandi non si limitava a leggere e a sottolineare, egli era infatti solito trascrivere metodicamente, con diligenza, ogni notizia ritenuta interessante, giungendo in tal modo a creare una sorta di fornitissimo archivio, uno schedario del Nuovo Mondo, dal quale poteva rapidamente e comodamente attingere nel corso della stesura delle sue opere. Come vedremo, questo metodo per raccogliere informazioni non deve peraltro essere rigidamente visto come una sorta di ancora di salvezza alla quale si ricorreva solo perché non esistevano altre alternative valide. Infatti la conoscenza della natura, lontana o vicina che fosse, avveniva comunque nel Rinascimento, anche se non soprattutto attraverso la consultazione della letteratura del passato e del presente, attraverso il recupero metodico delle parole sedimentatesi nel corso del tempo su animali, piante e minerali. Che dovessero per lo più limitarsi a leggere la natura americana non significava che gli scienziati italiani rinunciassero a cercare di vederla, almeno parzialmente, che non sfruttassero ogni possibilità per ottenere reperti, per ottenere dei campioni. Purtroppo anche in questo caso la loro situazione era ben diversa da quella degli studiosi e dei curiosi spagnoli, nonché di altri paesi che svolgevano una politica coloniale e commerciale verso ovest. Costoro nei porti del loro paese, in particolare a Siviglia, potevano soddisfare piuttosto facilmente i loro desideri, mentre altrettanto evidentemente non capitava per gli studiosi italiani. Proprio perché aveva presente la felice posizione della penisola iberica, Aldrovandi progettò nel 1567 di ricorrere all'aiuto del cardinale protettore del Collegio di Spagna di Bologna per ottenere i reperti naturalistici da lui elencati in uno indice copiosissimo di tutte le cose animate e inanimate che sono descritte dagli storici dell'India occidentale, del Perù, America e Isola Isabella e Spagnola. Aveva dato quest'indice al cardinale appunto affinché il cardinale gli procurasse concretamente gli esemplari ivi descritti. Oltre a puntare sulla benevolenza di personalità e colleghi stranieri e avviare con questi ultimi una politica di scambi, i naturalisti italiani potevano sperare di ottenere esemplari dei tre regni della natura, ricorrendo per lo più ai canali diplomatici e agli ambienti di corte cui tali canali facevano capo. Naturalmente, se non si era al loro servizio diretto, ciò significava solamente dover stabilire rapporti piuttosto stretti con signori e alti prelati della penisola, sollecitare il loro patronato, accettando in qualche modo di far parte delle loro clientele. Anche in questo caso il comportamento di Ulisse Aldrovandi appare del tutto esemplare. La devozione da lui manifestata costantemente ai granduchi di Toscana, Francesco I e Ferdinando I, si tradusse nell'apertura di un canale privilegiato sull'asse Firenze-Roma, lungo il quale viaggiavano reperti, tavole a tempera di cose naturali e informazioni. Qui avete un paio di esempi di tavole. Non sono neanche sicuro che siano esemplari americani, perché li ho presi a caso stamattina, comunque di tavole scientifiche che Aldrovandi ha ottenuto da Firenze. Questo è un lepro dell'Indie, questo è un Passer caudatus indicus, queste due tavole sono giunte all'Aldrovandi da Firenze, mentre le due seguenti sono due pappagalli che ha avuto invece da Mantova. È noto che i Gonzaga erano maniaci, avevano una vera e propria passione per i pappagalli. E come vedete la figura non stava sul foglio, la coda, e quindi hanno dovuto fare questa aggiunta che poi normalmente sta ripiegata sul foglio. E oltre a Firenze, anche Roma svolgeva un ruolo assai rilevante quale luogo di raccolta e di ridistribuzione sulla penisola del materiale informativo sul continente americano. Sovente tale materiale veniva trasmesso attraverso i canali della diplomazia pontificia e in particolare attraverso le nunziature ovviamente di Spagna e Portogallo. Nel 1552, ad esempio, Marcello Cervini, futuro Papa Marcello II, che cercava di favorire la composizione della Quatilium Animalium Historia di Ippolito Salviani, richiese a Pompeo Zambeccari, nunzio a Lisbona, il ritratto di tutti i pesci che si trovano in quel mare. Quest'ultimo, cioè lo Zambeccari, nell'inviare 61 pezzi dipinti in 17 fogli, informava però di essersi preoccupato di estendere la ricerca di iconografia ittiologica anche a tutti i possedimenti coloniali del Portogallo. È domandato al Brasile et in India et altre parti toccanti a questo regno per fare la medemma diligenza. E so che capiteranno qui, e sebbene potranno venire tardi, cioè i ritratti appunto dei pesci, lei li potrà sempre avere e per mia via o d'altro nontio che sia qui. Sul versante della diplomazia laica dobbiamo invece segnalare, come peraltro già si è visto trattando del Navagero, l'aiuto talvolta fornito agli studiosi della natura dagli ambasciatori della Repubblica di Venezia in Spagna. Nei suoi libri di piante, il patrizio veneto botanico Pietro Antonio Michiel ricorda esplicitamente di aver ottenuto l'immagine di alcune essenze vegetali americane grazie alla collaborazione di due di questi diplomatici, Marco Antonio da Mula, che se non sbaglio poi diverrà cardinale, e Sigismondo Cavalli. Da quanto abbiamo sin qui detto, emergono fondamentalmente due dati. Primo, che gli scienziati italiani, così come d'altronde tutti i loro colleghi europei, erano fortemente interessati alla realtà naturale del Nuovo Mondo, anzi spesso provavano nei confronti di essa una incontenibile curiosità. Né poteva essere altrimenti, visto che si aveva a che fare con una natura che emergeva dal nulla e che veniva descritta complessivamente come del tutto nuova e straordinariamente esuberante. Secondo, che anche se per vie indirette, attraverso difficoltà di non poco conto, era pur tuttavia disponibile nella penisola una buona quantità di materiale informativo sulle terre d'oltreoceano, sul quale si poteva comunque incominciare a lavorare. Resta ora da chiederci che tipo di lavoro, quale mole di studio produssero i nostri naturalisti su tale materiale e soprattutto quale percentuale, anche in termini qualitativi, essi dedicarono nelle loro opere alla trattazione di animali, piante e minerali americani. Tutte domande queste, alle quali in verità, prendendo in esame il solo secolo XVI, non ha molto senso tentare di rispondere limitatamente all'area italiana, e che pertanto possono e devono essere sintetizzate più proficuamente in un unico interrogativo di fondo: in quale misura la scoperta della nuova realtà fisica riuscì a modificare le coordinate concettuali di approccio alla natura, le consolidate credenze, il metodo stesso di ricerca degli studiosi europei. Trattando dell'impatto avuto dalla scoperta dell'America sulla società del vecchio continente nel secolo XVI, ha scritto una ventina di anni fa John Eliot, è difficile non restare colpiti dalle strane lacune e i clamorosi silenzi che in molti casi, in cui ci si poteva logicamente aspettare accenni al nuovo mondo. Che si tratti della geografia dell'America, della sua flora e della sua fauna, come della natura dei suoi abitanti, uno schema costante sembra ricorrere nelle reazioni europee. Da un certo punto in poi è come se si abbassasse la saracinesca, come se, con tanto da vedere, assimilare e capire, lo sforzo diventasse all'improvviso troppo grande e gli europei si ritirassero nella penombra del mondo intellettuale della loro tradizione. Questa difficoltà a recepire, dopo un iniziale momento di entusiasmo, le novità provenienti da Ovest, adattare adesso i propri schemi mentali, rinunciando a radicate convinzioni, fu generalmente diffusa, ma certo il settore della ricerca naturalistica, o meglio della pubblicistica naturalistica, fu uno di quelli in cui essa si manifestò con più evidenza. Nel 1530 usciva a Strasburgo l'Herbarum Vivae Icones di Otto Brunfels, un testo che grazie soprattutto al suo apparato illustrativo inaugurava una nuova stagione degli studi botanici. Quasi 40 anni erano trascorsi dalla scoperta di Colombo, eppure in esso non veniva registrata alcuna pianta del nuovo mondo. Nelle opere successive di botanica e zoologia si incomincia a trattare delle specie americane, ma in modo complessivamente molto limitato e prendendo per lo più in considerazione sempre lo stesso ristretto numero gruppo di piante e animali. Per tutto il secolo si manifestò uno strano comportamento da parte dei naturalisti. Da un lato essi non perdevano occasione per documentarsi sulla realtà del nuovo mondo, ma dall'altro si mostravano assai riluttanti a elaborare sino in fondo i materiali raccolti e ad inserirli nelle loro opere a stampa. Comportamento strano, si è detto, ma in realtà se lo si esamina, tenendo presente la realtà culturale in cui gli studiosi cinquecenteschi si muovevano, il loro metodo di ricerca, esso appare dotato di una sua chiara logica. Come noto, la rottura peraltro mai totale con la tradizione medievale e il consolidarsi della storia naturale come disciplina progressivamente autonoma si verificarono nel Rinascimento grazie al recupero della cultura scientifica classica e quindi all'accessibilità di un elevato numero di opere di autori antichi prima sconosciute o parzialmente sconosciute. Per il naturalista cinquecentesco, che nel suo lavoro di catalogazione partiva da zero, tali opere costituivano nel loro insieme la base indispensabile su cui poter via via accumulare altri materiali. Studiare la natura voleva dire identificare, verificare in primo luogo piante, animali e minerali descritti dagli autori antichi, cercando poi gradualmente, così come fece ad esempio il Mattioli nei confronti di Dioscoride, di correggere i loro errori, di ampliare le loro conoscenze. Seppur vera un certo spazio per esporre i risultati dell'osservazione diretta, era nel leggere e nel riferire tutto quanto era già stato scritto sulla natura che consisteva in nucleo fondamentale o quantomeno strutturalmente rilevante del metodo di ricerca. Abituati dunque a vedere la natura attraverso gli scritti degli autori classici, gli studiosi europei si trovarono in grave difficoltà nell'inserire animali e piante americane nei loro sistemi classificatori. Venerati e ritenuti autorità indiscusse, i vari Aristotele, Teofrasto, Dioscoride e Plinio non ne avevano infatti parlato nelle loro opere. E se non ne avevano parlato, si poteva persino arrivare a dubitare che esistessero. È vero che gli studiosi cinquecenteschi si vantavano ripetutamente di aver scoperto cose naturali ignorate dagli autori del passato o di aver corretto dei loro errori, ma tutto ciò era normale e legittimo sino a che tali critiche erano frutto di osservazioni compiute nelle stesse aree geografiche, nello stesso mondo, Europa, Asia, Africa, riconosciuto dagli antichi e da essi descritto. Si trattava infatti in questo caso di integrazioni e non di una radicale contestazione. Accettare invece in pieno la nuova realtà naturale che si era manifestata al di là dell'oceano non significava semplicemente entrare in contrasto con la verità di questo o di quell'altro autore antico, ma rimettere in discussione l'intero sistema culturale e l'impianto metodologico sui quali si fondava la ricerca naturalistica. Nel Cinquecento nessuno si sentì in grado di consumare sino in fondo questo strappo. un nuovo mondo, quello classico, era stato da poco portato alla luce, navigando all'indietro nel tempo. Ora, navigando sul mare, ne era stato scoperto un altro che sembrava minare le certezze apportate dal primo. Si trattava di fare una scelta e al momento gli scienziati optarono per l'antichità. Non si sentirono in grado di rinunciare ai punti di ancoraggio che essa da poco aveva loro fornito. Scusate. Sotto molti punti di vista il Cinquecento, più che il secolo dell'America, fu o continuò a essere il secolo dell'Asia, come mi pare anche, hanno anche confermato i dati che ci ha fornito Massimo Donattini. I dati sulla produzione libraria, io ho guardato quelli di Atkinson e così, ma tu sei andato avanti, più o meno hai confermato, i dati sulla produzione libraria sembrano infatti dimostrare il permanere, a dispetto della scoperta di Colombo, di un fortissimo interesse per l'Oriente. Ciò fu tanto più vero nell'ambito della ricerca naturalistica, perché da sempre l'Asia era la terra delle spezie, degli strani e numerosi animali, delle inquietanti forme umane, oggetto delle descrizioni degli autori classici e medievali. Così nel secolo XVI il desiderio degli studiosi di studiare sul campo la realtà naturale si concretizzò soprattutto in viaggi verso est, verso Creta, verso l'Egitto, verso la Siria. Antichità e Asia costituivano un tutt'uno, si legittimavano reciprocamente. Leonard Fuchs, nel suo De Historia Stirpium, pur descrivendo e illustrando due piante americane, il mais e la zucca, le riconduceva entro un orizzonte noto, definendole native della Turchia. Un altro fattore ancora contribuiva notevolmente a rallentare la recezione della realtà naturale del Nuovo Mondo. Molti storici, anche in tempi piuttosto recenti, hanno notato che nelle opere dei naturalisti rinascimentali la trattazione definibile veramente scientifica, scientifica in senso moderno, occupava una percentuale di pagine assai limitate ed anzi quasi irrisoria. Partendo da questa constatazione, si hanno spesso espresso dei giudizi negativi su tali opere, frettolosamente classificandole come faraginose e fantastiche. Ma facendo ciò, essi non si sono accorti di esprimere valutazioni sulla base di parametri attuali, partendo dal moderno concetto di scienza, senza tenere minimamente conto della visione simbolica della natura, dei metodi e delle finalità specifiche che caratterizzavano la ricerca cinquecentesca. Un atteggiamento corretto si deve invece basare sul presupposto che per lo studioso rinascimentale, per un Aldrovandi appunto, ad esempio, stabilire le simpatie e le antipatie fra gli animali, piante e minerali, cercare i loro significati morali, i loro valori simbolici, la presenza delle loro immagini sulle monete o sui bassorilievi, significava nel senso più pieno fare scienza. Ora è chiaro che questo modo di procedere aveva un senso e otteneva dei risultati solo se applicato allo studio della realtà naturale del vecchio mondo, da lungo raffigurata, raccontata e interpretata. Assai più complicato era invece descrivere in un libro un animale o una pianta dell'America, cioè un animale o una pianta senza storia. Quale significato simbolico infatti attribuirgli? In quale proverbio mai compariva? Su quale moneta mai un animale americano era stato effigiato? Quale raffigurazione geroglifica era possibile trovare? Abbiamo detto in precedenza che Aldrovandi, per colmare i suoi vuoti di conoscenza, aveva letto moltissime opere che trattavano del Nuovo Mondo. Egli però si lamenta spesse volte di queste opere e di questi autori, perché dice, essendo essi degli esploratori, dei mercanti o dei missionari, si erano occupati della natura in modo incidentale, in modo non professionale, non ex professo, ecco, non erano dei professionisti e quindi avevano fornito delle descrizioni che per Aldrovandi, che professionista era, appunto non erano soddisfacenti. Lo scienziato bolognese nomina esplicitamente anche Oviedo tra quegli scrittori che sono stati in quelle parti e dai quali, avendo essi sì descritto la natura americana ma solo accidentalmente, era possibile ricavare poche notizie. Ora, in realtà, nell'autore spagnolo, come ha scritto Gerbi, l'esperienza personale prendeva il sopravvento sulla tradizione orale e scritta. Ed egli era assai cauto nel raccontare ciò che non aveva visto direttamente. Sotto molti punti di vista, insomma, la sua opera potrebbe essere giudicata da noi moderni meno carica di sovrastrutture e quindi più scientifica di quella di un Gessner o di un Aldrovandi. Cioè, è molto più pulita da un punto di vista naturalistico. È chiaro, allora, che la mancanza di professionalità che il naturalista bolognese, Aldrovandi, rimproverava ad Oviedo, consisteva proprio nel fatto che il secondo, Oviedo, non aveva proceduto nelle sue descrizioni secondo quel metodo tradizionale nel quale il primo si riconosceva. Negli scritti dell'autore spagnolo, così come negli altri resoconti spontanei di navigatori ed esploratori, Aldrovandi non poteva trovare materiale utilizzabile nei capitoli delle sue opere dedicate alla trattazione di moraglia, ieroglifica, simbola, proverbia, eccetera. Con ciò si spiega, crediamo, la sproporzione che esiste oggettivamente tra la grande quantità di notizie sulla natura americana che lo scienziato bolognese aveva raccolto e trascritto nelle sue carte e lo scarso spazio che allo stesso venne poi concesso nelle opere a stampa. Non si sa come inserirli nella struttura di quella che è il tipico trattato di storia naturale cinquecentesco. Oltre ad avere il problema di come utilizzare le notizie sul nuovo mondo trovate nei libri, i naturalisti cinquecenteschi, sempre così pronti a proclamare il valore primario dell'esperienza, avrebbero dovuto porsi anche quello della loro attentibilità. Diciamo avrebbero, perché in realtà noi troviamo non di rado nelle opere di questi studiosi ricostruzioni della realtà naturale americana decisamente fantastiche, definite spesso dagli storici imperdonabili ingenuità e confinate nel regno della prescienza. Anche tali ricostruzioni devono essere invece valutate come esiti pienamente legittimi della ricerca naturalistica rinascimentale. Impossibilitati per lo più a fornire descrizioni basate sull'osservazione diretta, i naturalisti erano infatti costretti a fidarsi pressoché ciecamente delle narrazioni altrui. Non era infatti scontato che essi apportassero sostanziosi aggiustamenti o ridimensionamenti alle notizie apprese sui libri, poiché, come già abbiamo sottolineato, gli schemi mentali dei cronisti del Nuovo Mondo e quelli degli studiosi europei erano fondamentalmente identici, saldamente basati quelli degli uni e degli altri sulla tradizione cristiana classica e medievale, dunque fortemente propensi a immaginare ogni terra lontana, ogni periferia, come un mondo di meraviglie. Perciò, tornando al caso specifico dell'Aldrovandi, prima di emettere giudizi anacronistici su certe sue affermazioni relative a cose naturali o essere mostruose del Nuovo Mondo, occorre assolutamente tener conto delle fonti da lui utilizzate, che egli era costretto a utilizzare. Ad esempio, due opere alle quali lo scienziato bolognese fece massicciamente ricorso furono le Decadi di Pietro Martire e addirittura l'Universal Fabrica del Mondo, ovvero Cosmografia, del calabrese Giovanni Lorenzo Danagna. Nessuno di questi due autori, sia il Pietro Martire sia Lorenzo Danagna, aveva avuto contatti diretti con la realtà americana. Già entrambi quindi avevano scritto per sentito dire. L'Universal Fabrica, in particolare, che del Nuovo Mondo si occupava peraltro solo nell'ultima parte, era una di, come ha scritto Basile, era una di quelle somme geografico-cosmologiche inoltre tanto diffuse nella cultura dell'ultimo Rinascimento, che pur ripromettendosi di fornire un'immagine aggiornata dell'Universal Macchina della Terra, accoglieva in sé non pochi elementi della fantastica geografia medievale. Tra il materiale aldrovandiano esiste un'interessante testimonianza relativa agli stravolgimenti della realtà cui poteva portare la radicata immagine del Nuovo Mondo come terra del diverso e del gigantesco. Vari autori avevano informato studiosi e curiosi collezionisti europei dell'usanza degli indigeni delle Antille di catturare pesci, tartarughe marine e manati, cioè lamantini, utilizzando due generi di pesce roverso o riverso, cioè il pesce remora. Pesce che aveva la capacità di agganciare le prede. Il pesce remora somigliante a una grande anguilla chiamato guaiacano, guaiacanus in latino, catturava pesci e tartarughe, ma addirittura appunto lamantini, per mezzo di una pelle tenacissima, simile a una grande borsa, definita crumena appunto, che aveva sulla testa. L'altro tipo di pesce reverso invece catturava i pesci tramite le squame spinose di cui era fornito. Gli indigeni tenevano legati questi pesci per la coda, questi pesci reverso catturava altri pesci, poi veniva tirato sulla barca. Certamente la singolarità di questa notizia fece sorgere il desiderio di avere informazioni più precise su questo animale. E dunque Aldrovandi dovette essere stato particolarmente felice di ricevere da Roma, da Tommaso dei Cavalieri, le raffigurazioni dei due generi di remora e di poterle inserire nel suo vasto archivio di documentazione grafica della natura. Questi due fogli, appunto, Aldrovandi li ha avuti da Roma. Noi sappiamo che questo pesce può raggiungere, se non mi sbaglio, la lunghezza massima di 70 cm circa, quelli più grandi delle Antille anche. E peraltro lo stesso Vieda aveva descritto questo genere spinoso grande quanto un palmo. E anche Plinio, parlando della remora conosciuta dagli antichi, l'aveva definito un pesce piccolissimo. Ecco, questo secondo Vieda, questo pesce era grande un palmo. Anche se ignorava tutte queste fonti, il Cavalieri, colui che aveva inviato questi disegni, aveva fatto fare, aveva inviato questi disegni all'Aldrovandi, si trovava comunque nella situazione più favorevole per fornire un'immagine veritiera dell'animale marino. Egli infatti possedeva nella sua collezione di curiosità naturali proprio anche un reverso specie, cioè possedeva proprio questo pesce anche nel suo museo, quindi nessuno meglio di lui era in grado di valutare sul suo aspetto e sulla grandezza di questo, soprattutto sulla lunghezza di questo pesce. Oltretutto lo stesso Aldrovandi, in un'occasione di un viaggio fatto a Roma, aveva esaminato direttamente nel Museo dei Cavalieri il pesce stesso. Ma evidentemente tutto ciò non era sufficiente. Pur in questo caso la visione diretta non riuscì a prevalere sull'immaginato. Nei fogli inviati o dati dal collezionista romano all'Aldrovandi, infatti, come noi vediamo, entrambi i pesci appaiono enormi rispetto alle loro prede. Di una gigantesca... No, dov'è? Di una gigantezza, ecco, di una gigantezza quasi mostruosa. Guardate la sproporzione che esiste, è un quadro un po', sono una figurazione un po' naif, anche la sproporzione che esiste tra le barche con gli uomini e il pesce stesso. Le caratteristiche delle immagini dovettero far nascere qualche perplessità nello scienziato bolognese, che tra l'altro conosceva di certo molto bene tutta la letteratura sull'argomento, quindi Plinio, Viede e così via. La letteratura sull'animale lo dimostra il fatto che per attenuare il senso delle sproporzioni egli fece poi eliminare nelle silografie ricavate da queste pitture e pubblicate nel suo volume sui pesci sia le navi con i pescatori sia alcune delle prede più voluminose. Ecco queste, come vedete, dalle silografie ha fatto togliere le navi e soprattutto per esempio ha fatto togliere il lamantino se voi guardate ecco, sotto la pancia del reverso spinoso c'è un lamantino che è un essere molto grande, cioè è mille volte più grande del pesce. Ecco, questo. Ora, la barca è... No, questo pappagallo mi piace molto, scusate. Ecco, questo è stato... questo lamantino della barca è stato tolto dalla xilografia ricavata dall'immagine a tempera. E lo stesso è stata tolta la barca nella stilografia del Guayacanus. In questo caso Aldrovandi aveva provveduto a correggere l'informazione, ma lo aveva pur sempre fatto in modo piuttosto parziale. Infatti non si può non rilevare come egli, pur eliminando certi dettagli di contorno, abbia lasciato completamente immutate le immagini centrali, simpaticamente mostruose, ma comunque sempre irreali, dei due pesci, anche di quello, il reverso spinoso, di cui pure aveva visto l'esemplare conservato. Insomma, egli non se l'è sentita di contestare sino in fondo la descrizione pittorica fornitagli dal Cavalieri, anche perché probabilmente essa corrispondeva, almeno in parte, alle sue stesse aspettative. Quando parlo di aspettative dell'Aldrovandi, parlo evidentemente di aspettative di un uomo che aveva scritto anche un'istoria monstruorum e che quindi, entro certi limiti, credeva anche nell'esistenza di esseri favolosi come questi, insomma. Ecco, quindi non meraviglia che abbia potuto rappresentare due pesci come quelli raffigurati in precedenza. Questo tenete presente, questo è il Draco Bolognensis, questo è un drago bolognese, Aldrovandi lo conservava nel suo museo, quindi doveva ben vedere davanti agli occhi che cos'era, probabilmente un rettile che aveva mangiato una preda un po' voluminosa, ecco, ma l'abitudine a leggere anche gli animali attraverso le opere degli antichi lo porta a raffigurare una cosa di questo genere. L'animale era stato ucciso alle porte di Bologna, un contadino tornava dal mercato, uscendo dalla porta di Bologna, da una delle porte di Bologna, si è trovato davanti quest'essere che sbuffava dalle narici e questo villano molto coraggioso con la vanga l'ha ucciso, ma immediatamente dopo è arrivato Aldrovandi che quindi l'ha vista appena uccisa e poi l'ha fatto disseccare e l'ha tenuta nel suo museo, ciononostante la raffigurazione che ci fornisce è questa. Là poi, come nel caso della figura del Guayacanus, che è quella come forma di anguilla, egli non fu in grado di esercitare una qualche forma di controllo visivo, la fiducia nell'informatore è ancora più evidente. Molto più grande della tartaruga e del lamantino, il pesce americano, simile a un dragone, balza su di essi e li cattura appunto con la sua inquietante crumena. Questo è un drago marino, insomma, più che... Vi sono dunque motivi piuttosto fondati per rilevare delle contraddizioni con quel modo di procedere nella ricerca di cui Aldrovandi si vantava. Aldrovandi si vantava di non aver descritto, sono parole sue, cosa alcuna coi propri occhi che io non abbia veduto, cosa alcuna che io coi propri occhi non abbia veduto, cioè nessuna cosa che io non abbia visto con i miei occhi e con le mani mie toccato e fatto nell'anatomia. Cioè non ho descritto niente se non l'ho prima visto, se non l'ho prima toccato, se non l'ho prima anatomizzato. In realtà, al di là di ogni dichiarazione programmatica, uno dei cardini metodologici delle scienze descrittive rinascimentali consisteva non tanto nell'opporre la propria esperienza a ciò che si udiva o si leggeva, ma nello stabilire l'attendibilità dell'informatore. Sotto questo aspetto non sembrano esservi soluzioni di continuità troppo evidenti tra Medioevo e Rinascimento. Alla metà del 200 scriveva nella sua Historia Mongolorum il francescano Giovanni di Pian dal Carpine. Perciò dovete credere a ogni cosa che noi vi scriviamo con una certezza tanto più sicura in quanto o noi stessi abbiamo visto con i nostri occhi tutte queste cose o le abbiamo udite da cristiani che sono loro prigionieri e che, come crediamo, sono degni di fede. Fide dignis. Cioè, queste cose, dovete crederle, sono vere perché o le abbiamo viste o le abbiamo sentite da persone degne di fede. Tre secoli dopo, nel 1561, così si esprimeva in una lettera ad Aldrovandi a proposito del suo viaggio da poco terminato in Africa, Melchiorre Guilandino, fu un botanico che lavorava però a Padova e a Padova sarebbe diventato prefetto dell'orto botanico. Io ero uscito d'Europa con animo ritornato che fosse di far lite non a Plinio e Dioscoride, ma a tutta l'antichità insieme, avendomi proposto di trattare un argomento tale qual è quello di Plinio de Naturali Historia, non volendo scrivere cosa alcuna che non avessi veduto con i propri occhi o da persone degne di fede inteso. Come vedete, cioè, la posizione è identica. Ho visto con i propri occhi o persone degne di fede. Le due cose sono perfettamente equivalenti. Come si vede, il religioso e il botanico si esprimono allo stesso modo. Tra il vedere direttamente le cose e l'apprenderle da persone degne di fede, non v'era per loro alcuna differenza. Merita inoltre di essere particolarmente sottolineata l'intenzione espressa dal Guilandino di contestare le autoritates dell'antichità e perciò di svincolarsi da testimoni considerati almeno sino a quel momento ampiamente attendibili, non solo basandosi sulla propria esperienza, ma anche ricorrendo nuovamente ad informazioni indirette, cioè appunto alle persone degne di fede. Mentre cercavano il modo di catalogare le forme animate e inanimate del nuovo mondo, assieme a quelle del vecchio, i naturalisti, come già abbiamo detto, non lesinarono però gli sforzi per avvicinare a loro e studiare all'interno dei musei, negli orti botanici, tramite le illustrazioni, questa realtà naturale da poco scoperta. Entrare in possesso di reperti zoologici integri era assai difficile, sia per la scarsa efficacia dei metodi di conservazione, sia per gli inconvenienti inevitabilmente connessi ai lunghi viaggi di trasporto. Così gli studiosi dovevano più spesso accontentarsi delle semplici parti dure degli animali, scheletri, penne, becchi, denti, corna. Nel museo della Picca Brasilica del Brasile, ad esempio, nel museo di Antonio Giganti, vi era unicamente un pezzo della pancia verso la coda. Sulla base di queste parti, di frequente minime o assai poco significative, essi, gli scienziati, dovevano immaginare l'intera forma dell'animale e ciò favoriva indubbiamente il consolidarsi di quel procedimento descrittivo, già tipico in coloro che erano sbarcati sul suolo americano, consistente nel rappresentare forme nuove attraverso analogie con quelle già conosciute. Qui, ma solo come esempio, avete due illustrazioni che si riferiscono appunto a due dei più celebri musei naturalistici cinquecenteschi. Questo è un particolare del museo di Francesco Calzolari di Verona. Solamente sono raffigurazioni ideali e del tutto false. Qui vedete tutti degli animali in genere interi, ecco, spesso invece erano solo di un animale, avevano un becco, dell'alce avevano l'unghia, del dente, dell'elefante avevano un dente e così via. Ecco, quindi sono visioni ideali e questo che l'amico in Bruglia conosce ancora meglio è il museo invece di Ferrante Imperato a Napoli. Sia Calzolari che l'Imperato erano due speziali. Anche qui è una visione sicuramente ideale del museo. Lo studio delle essenze vegetali era invece assai meno problematico, dal momento che i semi o le stesse piante trasferiti in Europa con relativa facilità. Gli orti botanici pubblici e privati della penisola, così come di tutta Europa, incominciarono presto ad arricchirsi di semplici americani, in vista anche di una loro utilizzazione terapeutica. Nel 1565 un medico di Siviglia, Nicolò Monardes, pubblicava un libro sulle droghe medicinali portate dall'India occidentali, la cui traduzione in italiano uscì a Venezia nel 75. Quest'opera veniva a fare il paio con quella stampata a Goa nel 63 da Garcia da Horta, dedicata alle sostanze terapeutiche delle Indie orientali. Da est a ovest anche il mondo dei medicinali veniva improvvisamente notevolmente ampliato e per i medici, impegnati spesso in inutili cure contro le malattie, si aprivano teoricamente numerose altre possibilità di scelta. E invece, come dimostra anche lo studio delle farmacopee ufficiali delle città, la farmacologia rinascimentale si dimostrò estremamente conservatrice e continuò ad accordare le sue preferenze ai presidi terapeutici europei ed asiatici. Se si escludono alcune sostanze come la china, la salsa pariglia, il tabacco e soprattutto ovviamente il guaiaco o legno santo utilizzato sin dall'inizio del secolo contro la sifilide, se si escludono appunto alcuni medicinali, la recezione delle droghe americane fu assai lenta. Se medici speciali si dimostrarono piuttosto riluttanti ad accogliere massicciamente le nuove droghe americane, fu anche perché si dovettero misurarsi con gli stessi problemi che sopra abbiamo analizzato trattando dei metodi descrittivi. La difficoltà di fondo era quella di inserire le nuove piante medicinali nel sistema farmacologico galenico, assolutamente predominante nel Rinascimento, di conciliare le indicazioni sulle loro proprietà e sui loro effetti forniti dagli indigeni con i consolidati e razionali procedimenti della medicina europea. Restare anche in questo caso ancorati alla tradizione sembrò la soluzione migliore. Da numerosi medici e studiosi vennero anzi espliciti inviti a lasciar perdere, in questo in tutta Europa, come incerti negli effetti, costosi e atti dunque solo ad arricchire gli speziali, i medicinali delle terre lontane, ed utilizzare invece quelli nostrani da tempo conosciuti. Non troppo di frequente utilizzate come sostanze medicinali, le piante del Nuovo Mondo, in particolare quelle floreali, costituivano comunque delle novità assolute, delle curiosità da ammirare semplicemente come tali. Aldrovandi, rivendicando il merito di essere stato il primo in Italia, o quantomeno a Bologna, a seminare il girasole, avanti che fosse l'orto pubblico, cioè prima che esistesse l'orto botanico ancora, ricorda anche che esso era stato visitato per la grandezza e bellezza del suo fiore da tutti i gentiluomini e gentildonne. Anche nei musei, peraltro, non solo in quelli di dilettanti, i reperti americani non venivano utilizzati rigidamente come freddi oggetti di studio, ma erano considerati curiosità alla moda da esibire, richiami potenti per il grosso pubblico, il cui possesso qualificava perciò una collezione e conferiva prestigio al collezionista. Ma il grande sogno difficile da realizzarsi di ogni studioso della natura era ovviamente quello di non dover più dipendere dagli altri per avere notizie, reperti e figure. Il grande sogno, insomma, era di poter mettere i piedi sul suolo americano. Pur di avere informazioni più attendibili e regolari, Aldrovandi era disposto ad andare ad insegnare in Spagna, in Salamanca, o altro studio onorato, come lui scriveva, ma ancor meglio sarebbe stato se Filippo II lo avesse sostenuto nell'organizzare una missione scientifica nelle Nuove Indie, grazie alla quale egli avrebbe potuto realizzare non solo una dettagliata descrizione, ma anche una completa e fedele raffigurazione della natura di quei paesi lontani. Da Filippo II Aldrovandi non ebbe l'aiuto sperato, ma il sovrano spagnolo, come è noto, promosse comunque negli anni 70 una spedizione scientifica affidando al medico Francisco Hernández il compito di effettuare una ricognizione accurata della flora e della fauna messicana. Tornando in patria nel 1577, Hernández portò con sé il frutto del suo diligente e appassionato lavoro, almeno 15 grandi volumi in cui animali e piante del Nuovo Mondo, del Messico, venivano non solo descritti ma anche accuratamente raffigurati, con sus mismos nativos colores, scusate lo spagnolo che ignoro del tutto. Un resoconto di tal mole, compiuto sulla base delle osservazioni dirette, soprattutto le circa 5.000 immagini di cose naturali, non potevano certo passare inosservate agli studiosi europei affamati di notizie. Nel 1586 Aldrovandi ha avuto notizia dell'esistenza presso il re Filippo di un libro di varie piante, animali e altre cose indiane, nove, dipinto, pregava che il duca di Toscana, Francesco I, di farne trarre qualche figura degna dal suo ambasciatore in Spagna. Come noto, a causa dell'enorme mole del materiale dell'Hernández e forse anche deluso dalla sua qualità esclusivamente scientifica, Filippo II sperava di ottenere anche dei risultati più consistenti da questa missione sul piano economico, Filippo II non procede nella sua pubblicazione, si limitò a far ricavare da quest'opera dell'Hernández un compendio negli anni 80 e lo fece ricavare questo compendio da un medico napoletano, Nardo Antonio Recchi, allora presente alla corte di Madrid. Costui, rientrando poi nella città partenopea, portò con sé il volume, ornato di alcune centinaia di figure. I naturalisti non solo in Italia ma in tutta Europa non tardarono a interessarsi attivamente pure di questa documentazione, anche perché di essa, come dei materiali dell'Hernandez, aveva dato notizia, pur con qualche imprecisione, la costa nella sua storia. Dalla documentazione rimasta ci sembra fossero non pochi naturalisti che rivolsero la loro attenzione anche al compendio del Recchi. Ci fu una sorta di agitazione di tutti i naturalisti in tutta Europa. Da parte dei loro colleghi, gli studiosi napoletani furono tempestati di richieste di chiarimento sulla struttura del libro, in particolare sulle sue figure. Aldrovandi si rivolse a Della Porta e a Fabio Colonna, il Clusio da Leida e il Camerario da Norimberga a Ferrante Imperato. Il manoscritto del Recchi, ma senza l'apparato illustrativo, venne poi acquistato all'inizio del Seicento da Federico Cesi, principe dell'Accademia dei Lincei, con l'intenzione di pubblicarlo dopo averlo corredato di quelle opportune correzioni e integrazioni che le nuove conoscenze acquisite richiedevano. L'opera di revisione, nella quale si impegnarono alcuni membri dell'Accademia, portò via molto tempo. E l'opera, il cosiddetto tesoro messicano, poté uscire alle stampe nella sua edizione definitiva solo dopo la morte del Cesi, nel 1651. Si trattò certamente di un'impresa degna di nota, ma nello stesso tempo essa, condotta in porto in fondo da studiosi che non avevano mai attraversato l'Oceano Atlantico, costituiva una prova piuttosto evidente di quella certa arretratezza che riguardo allo studio della natura americana contrassegnava oramai la cultura scientifica italiana. La cultura di un paese che non aveva colonie e dal quale non partivano più nemmeno navigatori ed esploratori. Altre nazioni, realizzando il progetto vagheggiato da Aldrovandi, organizzavano invece missioni scientifiche in America, alle quali partecipavano medici, studiosi, pittori e scrivani. Nel 1648, 3 anni prima della stampa del tesoro messicano, usciva ad Amsterdam l'Historia Naturalis Brasiliae di Willem Piso e Georg Markgraf, due studiosi che erano stati in Brasile con il conte Johann Maurits von Nassau-Siegen. Mentre in Italia i Lincei, i compagni di Galileo, non avevano potuto far altro che ripiegare sulla pubblicazione del compendio di un'opera altrui e per quanto straordinario ormai vecchia di alcune decine d'anni, l'Olanda esprimeva la sua potenza scientifica, oltre che marittima e commerciale, con il lavoro di due uomini che la realtà naturale americana avevano direttamente conosciuto e investigato. Se in Italia nel 600 continuarono ad arrivare oggetti dall'America e in genere dai paesi lontani, fu soprattutto grazie ai missionari, tra i quali si segnalarono ovviamente i gesuiti, i più impegnati nella ricerca scientifica. Il milanese Manfredo Settala si serviva, così come altri collezionisti della sua città e lo stesso vescovo, il cardinale Federico Borromeo, di missionari di passaggio per Milano, appunto per arricchire di reperti etnografici e naturalistici il suo museo. Sappiamo anche delle iniziative dei due padri cappuccini sopra ricordati, il Guattini e i De Carli, relative all'invio di campioni della flora americana al botanico bolognese Giacomo Zanoni, il quale peraltro sempre religioso doveva pure cospicui rifornimenti di semi e di immagini di piante dall'Oriente e dall'Africa. Ma tutto ciò significava non solo continuare a lavorare su cose o parti di cose viste da altri, cioè sulla natura morta, ma anche dover dipendere dalle informazioni di chi, come appunto gli uomini di chiesa, vedendo e interpretando la natura attraverso i testi sacri, tendeva non di rado a sostenere l'esistenza di quei meraviglia che in tali testi erano descritti. E dunque, se progressivamente si affievolì nel 600 quella visione simbolica della realtà e quella necessaria dipendenza dalle autorità antiche sulle quali si è largamente fondata la storia naturale cinquecentesca, ciò non avvenne senza che le diverse situazioni politiche, economiche e religiose determinassero fra i vari paesi delle più o meno evidenti sfasature. Se negli stati che sviluppavano una forte politica coloniale poté prendere l'avvio, con minori esitazioni, un processo di recezione e classificazione tassonomica della natura, che grazie alla consuetudine visiva, le nuove e diverse forme accoglieva come tali, in Italia, a dispetto degli ironici, ma non a caso, pur sempre cauti attacchi portati da un re contro il padre gesuita Atanasio Kircher, ogni reperto americano, comunque esotico, continuava facilmente a essere valutato come meraviglia e curiosa bizzarria piuttosto che come documento, come oggetto da mostrare per suscitare stupore piuttosto che da utilizzare per migliorare le condizioni di vita dell'uomo. Sotto certi aspetti, alla metà del secolo XVII, l'America sembrava più lontana dal nostro paese di quanto lo fosse stata al tempo di Aldrovandi. Una lontananza che certo non poteva essere annullata o significativamente ridotta da una documentazione come quella che padre Guattini inviava da Pernambuco al suo superiore. un piccolo baullo pieno di diverse curiosità, un piccolo baullo pieno di diverse curiosità e bizzarrie, una pelle di bisce, un osso di pesce, una corona di cocco, dei semi, con le quali bizzarrie il suo superiore, al quale appunto questo baule era diretto, null'altro appunto avrebbe potuto fare che allestire una galleria singolarizzata tutta di bizzarrie. Grazie e scusate. Dopo l'applauso, un grazie anche esplicito a nome di tutti. È stata una relazione bella e avvincente che mi ricorda quella che hai tenuto anni fa sull'origine dell'Accademia dei Lincei. Ecco, in cui... Con un'ora in meno però, con sollievo degli ascoltatori. Beh, no, in cui alla ricchezza interna si unisce appunto questa... non so come dire, questa avvincente presentazione. Adesso proprio questo, sì, i coordinatori, perché io sono solo qui in obbedienza ai due coordinatori. Facciamo la discussione subito, poi un breve intervallo per il caffè e poi la conclusione del professor Prosperi, in modo da finire non tardi, il più presto possibile, per permettere a coloro che volessero partire subito di... Ecco. Io prego soltanto chi vuole intervenire di prendere la parola qui al microfono. Ci deve essere anche un microfono, quello là, ancora il filo poco. O anche quello, insomma, ecco, abbiamo, ecco. Ma è meglio parlare qui che non dal posto. Ormai ci conosciamo tutti, quindi spero che le timidezze pruriginose in questa settimana siano scomparse. Professor Vandruska, al microfono. Io preferirei Vermeerlich nach dem Ine in einem italienisch deutsches Institut arbeitet, habe ich Deutsch ganz vergessen. Ja. Aber ich sorge nur die italienische Abteilung des Instituts. Però du schiere Deutsch. Invece di fare Frage, vai benissimo. Diciamo, allora io devo parlare in italiano. Sì. Carissimo Pepe, ti sono immensamente grato per quella tua conferenza, e specialmente anche per le proiezioni, perché confermano e illustrano molto bene come in questo periodo ancora, per esempio, una persona come Aldrovandi, uomini scientifici, nello stesso tempo pensavano e prendevano anche per vero tutto quello antico. Abbiamo visto questo miscuglio ed è stato dimostrato che è assolutamente impossibile di separare l'uomo scientifico dall'uomo che vive ancora in questo mondo favoloso e col desiderio, appunto come l'ho detto l'altro giorno, lo scienziato pure si interessa sempre un po' dell'astrologia, eccetera. Non si può scindere queste cose. E la scoperta d'America ha portato nuovo materiale, ha dato nuovo, non solo scientificamente, ma anche nello stesso tempo nuovi spunti, nuovi impulsi per questo mondo fantastico, per questo fantasticare, per far rivivere i ricordi. Per esempio, se prendiamo i coccodrilli che erano noti dall'antichità, e qui ci sono poi gli alligatori, certo, sono simili, allora è una conferma anche per loro, per gli scienziati, che ci sarà anche vero queste altre figure, eccetera. E troviamo per esempio questa anguilla che grandiosa che mangia, le tartarughe. Sì, sì. Dovete scusarmi perché io sono fuori di pratica adesso dell'italiano. La riporto. Quindi, per esempio, questo è il classico caso della convivenza fra lo scientifico e il fantastico. Io vorrei solo sottolineare, e questo illustra anche quello che abbiamo detto sulla via dei Fugazzettum, eccetera, che c'è molto, viene attraverso la Spagna, poi arriva attraverso l'Italia, dove ci sono i piccoli principi, per esempio i Gonzaga, certo. Vespasiano, prendiamo Vespasiano Gonzaga, per esempio, che è il grande di Spagna ed è nello stesso tempo principe, e sono poi principe indipendente, sovrano, no? Di Sabbioneta, dove gli elefanti, per esempio, hanno una importanza simbolica e nello stesso tempo reale, sì. Perché poi passa Massimiliano II, porta l'elefante e abbiamo qui. Überall hier, wenn ich jetzt Südtirol spreche, ja. Vielleicht auch Deutsch, Trentino spreche, die Gasthöfe zum Elefanten, ja. Überall, wo der berühmte Elefant genächtigt hat. Und bis heute gibt es in Brixen und in Österreich auch e una zampa di questo elefante. Da una zampa di questo elefante è stata fatta una bellissima sedia, dalle ossa, uno sgabello, sì, sì. Che si trova nel convento di Kremsmünster in Austria, e poi si porta i Lorena sono poi gli eredi, anche in questo senso, dei Medici, con quell'enorme interesse, quell'interesse della tradizione di Galilei, ed è Francesco Stefano, anzitutto, che ha mandato tre spedizioni nella Caribica che portavano pesci, eccetera. E il più grande, e questa culmina poi questa tradizione con la grande spedizione, questo senso per le spedizioni, su suggerimento di Alessandro Humboldt, che fa Metternich, uno dei più grandi menzionati per le cose scientifiche, era il principe Metternich, che coglieva l'occasione del matrimonio di un Asburgo con Don Pedro del Brasile per far venire una enorme 4-5 navi soltanto pieni di queste bestie messe nello spirito, nell'alcol, eccetera. C'è questo viaggio poi intorno quasi dall'America, e lo troviamo poi anche col mais, che poi prende da noi, certo. Il nome di grano turco. C'è questa cosa, e da noi in Austria si chiama cucuruz, e questo cucuruz turca ungherese, i curuzzi. Sì, sì, è quella descritta da Fuchs, appunto. Sì, sono quelle descritte da Fuchs, che fin dall'inizio le attribuisce alla Turchia. La cosa più curiosa è poi il fatto che anche quella testa reazionaria, finché volete, di Francesco I, secondo primo imperatore del primo imperatore d'Austria, no? Il suocero di Napoleone, che aveva questo senso. E c'è poi il famoso caso di quel negro massone cristiano che è stato Oskestoff, impagliato e messo con tutta questa enorme massa di materiale che si trovava, non c'era ancora il museo di storia naturale, sul tetto della biblioteca di corte. E nel 48, quando Windischgrätz ha bombardato Vienna, tutte queste cose che hanno naturalmente lo spiritus, l'alcol brucia molto bene, e anche quel povero negro impagliato è bruciato. Allora si vede che c'è questo interesse enorme, e anche l'interesse galileano del principio del provando e riprovando, eccetera. C'è qui un giro di interesse che va da Cesi, che va da altra parte, da Asburgo, specialmente da Lorena. Questo volevo soltanto ringraziarti di aver dimostrato qui questa bellissima. Ringrazio io. Grazie. Te. La parola. Sì. Per il professor Vanzos, che niente, sottolineasse la necessità appunto di non scindere, almeno per quanto riguarda il Rinascimento, questi gli aspetti simbolici nello studio della natura, gli aspetti simbolici da quelli che oggi appunto noi definiamo invece aspetti scientifici. Ecco. E intendo ribadire soprattutto anche come non ci si debba, secondo me, mai fidare troppo, appunto, allorché gli scienziati appunto parlano dell'osservazione diretta, parlano dell'esperienza diretta, insomma. Mi ricordo così 15 o 16 anni fa, Maccagni, dimostrando anche in questo la sua genialità, io ero ancora un ragazzino, e mi disse, lo dicono tutti che si basano sull'esperienza diretta, ma dice, un topo, cioè nessuno lo fa in realtà anche nel Rinascimento. E per me, che era questa battuta, per me che ho reduce da lettura appunto sul Rinascimento, in cui appariva che il Rinascimento era questo mondo nuovo in cui tutto cambiava l'esperienza, rimasi lì per lì scioccato, ecco, salvo poi nel corso degli anni di verificare, ecco, che tra che esiste sì ovviamente anche un'esperienza diretta, ma che fa il paio ed è sullo stesso livello appunto sul riferito da altri, insomma. Benissimo, ci sono altri interventi? Professor Mazzolini. Se vuoi sapere il numero esatto degli uccelli americani che sono in ortologia. No, questo no, il numero non lo voglio sapere. No, ed è una... Una osservazione su una cosa che tu sai benissimo. E ne abbiamo discusso tanto. Stiamo entrando nell'autobiografia. Ed è un po' questa idea secondo la quale poi nel primo 600... verrebbe meno l'interesse per l'America, questo è l'intervento che faccio io, e tu, questa è la tua tesi, mi pare, e una certa arretratezza in fondo del mondo scientifico italiano rispetto in questo caso all'Olanda. Ecco, allora io dico, cosa succede in Inghilterra, dico, contemporaneamente? Io su questa valutazione io non sarei tanto d'accordo, perché per un motivo semplice, perché in fondo dalla fine del Cinquecento, dico, c'è un nuovo mondo che non è l'America, ma che è un mondo molto a portata di mano, per cui tu stesso che li hai studiati, i lincei, è un nuovo mondo. Quando si usa il microscopio, uno studia l'ape, non ha bisogno di un animale che delle Americhe, cioè l'incremento della scienza è tale per cui ciò che è vicino viene studiato in maniera diversa. E prima del microscopio, Girolamo Fabrizi d'acqua pendente, io credo che c'è la gente che osserva e fa del nuovo, e quando studia l'uovo di gallina e lo studia per anni e fonda quella che noi positivisticamente chiamiamo l'embriologia sperimentale, riprendendo certamente gli esperimenti di Aristotele, però di nuovo, e però è sull'uovo di gallina. Cioè, vorrei dire che c'è nell'ambito delle scienze anche naturali un nuovo mondo a portata di mano, che è ampliato ovviamente dal microscopio e dalle nuove tecniche. Cesi è l'esempio, e tu lo puoi illustrare proprio con gli erbari trovati in Francia e con le osservazioni microscopiche, e ricordiamoci che sono i lincei i primi che fanno queste osservazioni microscopiche al mondo. No, certamente, ma sono pienamente d'accordo, voglio dire, proprio appunto anche la scoperta dei codici botanici del Cesi, no? Che riporta quelle che sono le prime osservazioni microscopiche nel campo della botanica, come la melissografia poi era stata nel campo della biologia, cioè confermano l'alto livello scientifico dell'Accademia dei Lincei. Ecco, io forse dovrò riscrivere questa pagina finale, cioè non intendevo parlare innanzitutto di uno scadimento della ricerca scientifica in Italia, stavo parlando solo del problema, mi limitavo, diciamo così, al problema dell'America, all'interesse per l'America, e soprattutto e anche lo attribuivo al fatto che mi pare di aver detto che i canali di informazione continuano a esserci, ma diventano molto particolari, cioè non è una questione di ignoranza, voglio dire, le persone che lavorano al tesoro messicano di Cesi sono persone tanto di cappello, cioè il Faber, Fabio Colonna, sono persone enormi, ecco, sono persone che per contingenze politiche e economiche, la situazione dell'Italia, non hanno neanche la possibilità di andare a verificare. A me pare che nel 600, almeno nel primo 600, sia affidato molto questo trasporto di reperti, sia molto nelle mani dei religiosi, insomma, molto nelle mani dei gesuiti, insomma. E ora il reperto non arriva mai, non è mai qualcosa che è neutro, cioè chi sceglie un reperto lo sceglie in un certo modo e probabilmente quando te lo dà anche con una certa interpretazione, insomma. E secondo me in questo senso parlo di ritardo dell'Italia, non in campo scientifico, ma nei confronti dell'America, ma per pure questioni politico-geografiche, insomma. Ovviamente non sai che il nostro nazionalismo, noi siamo come dei croati ormai. Certo. Il mondo delle infusioni, personalmente devo dire che il mio primo articolo di giornale è stato da ragazzo, da giovanotto, sul rito di Tiente, non so come si chiama in italiano, no? Che è quello che dice, come si chiama questo rito di costruzione? Che è uno degli infusori che ha testa due ruote, certamente bisogna tenere presente anche questo, cioè che dopo la scoperta dell'America, cioè, a un certo momento ci sono queste altre scoperte di altro tipo, che sono appunto la rivoluzione galileiana, la messa a punto del microscopio, che indubbiamente, voglio dire, distraggono tra virgolette anche gli scienziati da una ricerca naturalistica di tipo più esteriore, appunto sugli oggetti esotici, ecco, per concentrarli su ciò che è vicino e su ciò che è infinitamente piccolo, insomma. Grazie. Io vorrei chiedere personalmente a Beppe se vi può riportare la prima immagine, la seconda, anzi. Sì, è molto difficile tecnicamente. No, se si fa troppo in lungo. No. Ci siamo. Questa, ecco, ciao. Ecco, perché bello dicevo, c'è la frase e finalmente sei venuta, no? Poi là c'è Olinda, cioè è la conquista, però la conquista sui portoghesi, perché Olinda è stata conquistata negli anni appena precedenti o l'intorno, se ben ricordo, qualcuno può precisarmi meglio, ma siamo intorno al 1630-31, quindi la cioè qui ci troviamo di fronte anche a una raffigurazione di tipo politico, perché tandem il Portogallo, l'Olanda nei confronti del Portogallo, era semplicemente questo, cioè che accanto alla abbiamo sempre questo intreccio di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, insomma, e la contrapposizione è tra l'occupazione portoghese e l'occupazione olandese, che viene vista come occupazione di civiltà in fondo, però appunto volevo solo porre questo problema, cioè che la presenza adesso Matanza è tra poco è più verso la Guayana, se non mi sbaglio, ad ogni modo è l'occupazione del nord-est del Portogallo da parte degli olandesi, insomma, sostanzialmente, che è appena avuto in questi anni e che viene celebrata da questa tavola. Era Innsbruck, per esempio, il castello di Innsbruck, per parlare dei pappagalli, certo, tra i tutti, di Marco Sommetrato, la saga dei giganti, le figlie di Maria Teresa, e ci sono tanti pappagalli, e quindi è anche a Schoenbrug, nel corso di Merckx, che sono stati messi. Ci sono, sì. Grazie. Altri interventi? Prego. Una domanda forse molto semplice per quello che riguarda l'ultima rappresentazione dal gabinetto che abbiamo visto. Sì. E la domanda sarebbe, se c'è, la forma di rappresentare la natura, cioè si trova un ordine, allora c'è una... Sì, un ordine all'interno del museo? Dico. Voilà. Dunque, i naturalisti cinquecenteschi parlano anche spesso dell'ordine delle loro collezioni. Che una natura, un museo è bello e serve allo scopo, se oltre che ricco, di reperti e ordinato. In realtà, come si vede poi anche da queste immagini, c'è un ordine metodico, né tantomeno come li intendiamo. In realtà l'ordine che c'è in un museo cinquecentesco, a mio avviso, è un ordine prevalentemente estetico, cioè deve contare per il cliente, per il visitatore, cioè, non ci devono essere dei vuoti, ovvero un'opportuna mescolanza di vuoti e di niente. Le due oggetti devono essere sistemati in modo appunto da creare una gradevole, diciamo così, opinione nel visitatore, che come vedi poi non a caso si continua ancora nel Cinquecento, continua questo usante di prendere al soffitto. È interessante che si prenda al soffitto i pesci, che devono avere visto un animale dell'aria e un pesci, ma simbolica della realtà che hanno gli scienziati, ecco qui naturalmente non si vede, questo è interessante, questa visione simbolica viene addirittura raffigurata in questo museo. In alto a sinistra sul mobile, se per caso di sedere, è il primo, è un pesce palla, non so se lo vedete. Dopo il pesce palla c'è altro qualcosa di confuso, ma subito dopo lui c'è un pellicano che si sta aprendo il petto con il petto. Come sapete, questa è una cosa dei bestiari medievali, no? Il bestiario medievale è appunto il pellicano, con i figli appena nati, tutti il pellicano, quando si deve mangiare i genitori, i genitori si arrabbiano Altri interventi? Professor Reinhardt. Cominciando col mais chiamato Gran Turco dagli italiani, desidero sapere che la politica generale di dar nomi alle nuovi oggetti dal punto di vista dei cieciati italiani. Seguono l'esempio spagnolo e che è la strategia. A occhio e croce, per i pochi esempi che conosco, mi pare di sì, insomma, anche perché la Spagna rappresenta, mi pare, il principale canale di rifornimento, insomma, senza contare che appunto la Spagna è la potenza predominante anche politicamente in quel momento in Italia. Quindi mi pare che ci siano degli agganci abbastanza evidenti. Poi per riguardo al grano turco, io ovviamente non ho parlato di nessun problema delle piante alimentari, il grano turco alla patata, anche 500, 100, 100 molto poco, nel senso si vengono raffigurati, c'è la pianta come produzione sulla larga scala, se non tutto la patata, quindi cominciano dopo le 6, le 2, la patata del 700. Professor Prosperi. Pensavo a questa immagine dell'Olanda, questa immagine femminile che mi sembra. C'è l'unica cosa bella della relazione, della mente che avevo trovato. È bellissimo, no, è bella. Non c'entra più per quello che si arriva. No, invece c'entra sì, solo che è la polemica con Beppe da 20 anni, e quindi chiedo scusa perché può apparire una cosa, cioè che anche la politica entra dentro ai questi discorsi naturalistici. Ecco. Sì, la politica entra, e io chiedevo proprio se tu hai incontrato immagini di Italia o di Germania. Italia e di Germania, immagini umanizzate in qualsiasi contesto che sia per noi interessante, nel senso che la mia impressione è che ci sia, diciamo, che questa immagine dell'Olanda possa servire come punto d'arrivo, di partenza, nel senso che fino a quella data l'immagine è quella dell'Europa, come intera figura femminile che comprende quindi prevalentemente Italia, Germania e anche Spagna. Ecco. È un po' anche una cosa simbolica per questo nostro colloquio, nel senso che l'Italia e la Germania come protagoniste autonome di questo rapporto con l'America non l'abbiamo mai. La seconda domanda è questa. Questi scienziati sono destinatari di un'informazione, penso al rapporto fra i libri e gli oggetti del museo che tu hai descritto, e che è una informazione prevalentemente di missionari, certo, diciamo, sono quelli che vedono di prima fascia e poi riferiscono, che è un'informazione sulle società e sugli uomini e sulle credenze. Esiste un topos della rinunzia a parlare degli uomini per parlare invece degli oggetti e delle cose? Penso al caso della Giovanni, che di curiosità per gli uomini e per le idee ne aveva molta. Per immagini non so risponderti, nel senso che me ne vengano visivamente avanti, ma non saprei dire la data, quindi non ho idea se già prima di questa ci siano allegorie appunto di Italia o Germania, figurate come dame così. Ecco. Riguardo al secondo problema, Aldrovandi ha questo, per esempio, ha anche lui questo interesse per la raccolta di oggetti etnografici, e arte plumaria, archi, frecce, scarpe, eccetera, eccetera, oggetti di artigianato in pietre preziose, così. Ecco, certamente c'è in lui, c'è un interesse anche per gli usi, i costumi, i riti religiosi, insomma, di questi poveri lontani, di questi popoli lontani, ma la mia impressione, che in genere non viene poi mai sottolineata, è che in realtà ciò che ai naturalisti interessava di questi reperti era soprattutto il materiale di cui era fatto. Cioè, se una cosa era fatta in pietra preziosa, cioè, è la pietra che conta, è il materiale di qualsiasi regno della natura esso fosse. Ecco. E in questo senso dobbiamo anche smitizzare, no, il museo come luogo di incontro arte-natura, no, queste interpretazioni che per le collezioni principesche probabilmente hanno sono giuste, hanno un loro significato. Ecco, per le collezioni di questi privati, che erano medici, che erano farmacisti, che erano docenti universitari, ecco, lo scopo pratico delle collezioni è più evidente. Anche questo materiale etnografico entra, così come il materiale antico. Aldrovandi, la catalogazione del materiale che fa, dei bassorilievi che ha, è tutti sulla base del materiale, si capisce che entra dentro in quanto marmi. E quindi c'è questo aspetto. Oppure lui, un'altra cosa molto bella, ha ricevuto in omaggio dal Paleotti, quale da giovane lui deve aver fatto un articoletto, dal Paleotti un'immagine, un quadro di piume, di un San Gerolamo col leone dipinto in piume. Ecco. Quando descrive questo pezzo, che Aldrovandi lo tiene nel suo museo in mezzo ai reperti naturalistici, anche se un quadro, ma poi la minuzia con cui descrive, c'è San Gerolamo, ci sono tante piante, ai piedi c'è un leone, poi compaiono tre uccelli, c'era anche una fonte visiva in realtà più per la fauna o la flora americana, cioè così lo vive Aldrovandi, più che un quadro, più che un'opera d'arte. Ed è significativo che ne parli anche dentro all'ornitologia, dentro al suo libro sugli uccelli, parla di questo quadro semplicemente perché è fatto di piume d'uccelli, insomma. Quindi ecco, c'è più un interesse naturalistico che antropologico anche nella raccolta di questi oggetti. Va bene. Donattini. Due cose. La prima, qualche informazione di più su, desideravo, su quel testo a cui ti riferivi, testo anonimo, in cui c'è questa equiparazione tra mondo nuovo e mondo di Cuccagna. Non ho capito se è della prima metà del Cinquecento. Sì, ma questo è molto semplice perché l'ha pubblicato anche Camporesi, e peraltro è stato trovato da Carlo, da Ginsburg, credo, che è segnalato a Camporesi, il quale poi l'ha pubblicato nel Bertoldo, quello della PBA in Audi, insomma, ecco. E deve essere della prima metà del 5. Ho capito. La seconda cosa era questa, mi veniva in mente una cosa riportata da un ragionamento riportato da Bruno Nardi molto tempo fa, che riferiva di Pomponazzi, di Pietro Pomponazzi, che nelle sue lezioni bolognesi, credo 1512 o 13, non ricordo con precisamente, faceva questo ragionamento con i suoi allievi commentando Aristotele, dice c'è stata la scoperta dell'America e questa ha messo in crisi tutte quante le certezze, vedete dunque se non siamo neppure in grado di stabilire le cose del mondo fisico, come mai potremmo riuscire a risolvere le cose del mondo, no? Ecco, allora c'è qui un elemento di crisi, no? di un tessuto di conoscenza acquisito. Ecco, in Aldrovandi no, non esiste, cioè i reperti, i dati che pure ci sono, che pure arrivano, non causano nessuna messa in crisi di questo tessuto di conoscenza, di questa metodologia della conoscenza, no, che lui utilizza. No, c'è questo senso appunto di questi spazi immensi che si sono aperti, no? Quella frase che diceva, sua, no? Questa definizione dell'America, si è aperto davanti a noi un grande settore di ricerca, dice, che definisce Magnus Campus, perché, almeno così ho trovato i manoscritti, appunto, Colombo ha scoperto queste nuove terre, che non definisce, dice quasi alter mundus, dice, non è che il nuovo mondo, quasi alter mundus, ecco. C'è questo senso di qualcosa che si spalanca davanti, però sì, non c'è tremore, diciamo così, o messa in crisi evidente appunto di quel